Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Allora, vi ricordo come sempre alcune informazioni di servizio. Scusate la ripetitività, ma è scientifica e voluta affinché tutti voi possiate avere degli strumenti di orientamento. Primo è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, presso la quale segnalare casi, mai casi personali. Ultimamente me ne stanno arrivando alcuni che sono francamente da non poter prendere in considerazione: rapporti con l'assicurazione che non riconosce un danno auto, abbiate pazienza, non sono casi che si possono prendere in considerazione. Capisco l'importanza per il singolo, ma noi dobbiamo andare su casi che possono interessare chiunque. Poi il nostro nuovo sito su radio24.it, troverete la possibilità di scaricare via podcast con abbonamenti tutte le nostre puntate di qualunque trasmissione. Vedrete i profili dei giornalisti. Se visiterete il mio, troverete anche il mio blog Guardie o Ladri. Vi potete accedere anche attraverso l'home page del Sole 24 Ore. Dicevo della nostra mail. Allora, a questa mail si è indirizzato un nostro radioascoltatore, si chiama Dario Marino, facendo presente un caso abbastanza spiacevole con una banca. Si tratta di Unicredit, segnatamente la filiale di Desenzano del Garda. Allora, noi abbiamo contattato, come facciamo sempre, anche la controparte chiamata in causa, che è appunto Unicredit. Ancora questa mattina l'abbiamo fatto con una mail spedita dalla redazione. Unicredit è a conoscenza anche del caso di cui trattiamo, ma hanno reputato opportuno non intervenire. È una scelta, a voi il commento. A me piace sempre invece la dialettica e quindi il confronto tra le parti, e questo è il sale della democrazia. Allora, abbiamo il nostro radioascoltatore Dario Marino pronto a descrivere un caso che non sarà successo soltanto a lui. Buongiorno Marino. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno anche a lei e alla controparte. Allora, e abbiamo poi anche, non è in questo caso una controparte, ma è Elio Lannutti, presidente dell'associazione Adusbef. Buongiorno Lannutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, Marino, può raccontare la sua vicenda? Brevemente, nel 2000 avevo stipulato un contratto di mutuo per la mia prima casa ed, essendo l'unico a lavorare in casa, ho stipulato assieme al contratto di mutuo anche un'assicurazione legata al mutuo. E mi accorgo il 2 dicembre di quest'anno, dell'anno appena passato, che l'assicurazione non esisteva più. E non esisteva più, tornando indietro, controllando col direttore della banca a sua insaputa, era stata eliminata il 28 di ottobre del 2008. Momento in cui era venuta la fusione tra Capitalia, Unicredit, e avevano cambiato il loro software. Ho capito, quindi lei ha pagato, suppongo, anche, ho no? Ho sempre pagato, loro hanno detto che due rate non erano state pagate, ma il non pagamento non era imputabile a me, era imputabile al loro sistema software. Ecco, improvvisamente cancellata, il che vuol dire che questa assicurazione che aveva, assicurazione vita, valeva per gli anni in cui non era stata fatta ancora la fusione, ma da quel momento in poi, senza che lei apparentemente ne avesse avuto cognizione di causa, non valeva più, giusto? Esatto. Ecco, esatto. Noi tra le altre cose abbiamo contattato Unicredit, che ci ha detto che il caso è risolto. Ora io francamente non riesco a capire. È stato risolto esattamente, ecco, ieri, dopo che 3 giorni prima mi ero stato contattato dalla vostra assistenza, dalla nostra redazione. Esattamente. Oh, guarda, miracolosamente è stato risolto. Ma guarda tu che coincidenza. E com'è che è stato miracolosamente risolto questo caso? Beh, si sono attivati velocemente, cosa che prima il direttore, che si è sempre impegnato della mia sede di Renzano, ha fatto, ma lui non riusciva ad aver ragione. Quindi si è attivata la sede di Brescia e hanno rimesso tutto in ordine. Oh, ecco, quindi possiamo anche aprire un processo di santità laica, scusate il gioco di parole, per Radio 24, che riesce a risolvere miracolosamente questi casi. Francamente preferirei farne a meno, nel senso, preferirei avere a disposizione gli interlocutori. Lo dico sempre, non capisco perché si rinuncia al dialogo, è una cosa che francamente mi manda in bestia. Comunque, a questo punto la situazione è risolta. Una curiosità, rimarrà lei con Unicredit? Per il momento sì, anche perché mi mancano ancora 5 anni di mutuo da pagare, quindi sarebbe anche difficile riuscirmi a spostare. Assolutamente. E poi, a parte questo incidente, io ero ancora quando ero studente, avevo il primo mio libretto, è stato fatto con loro da mia madre, non avevo mai avuto problemi. I problemi ci sono stati dal momento della fusione. Perché... Sì, i problemi poi sono sempre gli stessi alla fine, quello di un mancato dialogo tra le parti, cioè di una comunicazione che magari si crede che ci sia da una parte ma l'altra non la coglie. E allora, visto che siamo tutte persone intelligenti, c'è qualcosa che non va nel dialogo. Allora, questo è il caso. Elio Lannutti, presidente di Adusbef, ce lo commenti un pochino. Quanto è normale che accada una cosa del genere? Quanto è anormale? Quanto è fisiologico? Quanto invece è il sintomo di un malessere profondo? Non è normale, è il sintomo di un malessere profondo da parte di questi signori banchieri che si credono i padroni del mondo, ai quali tutti devono obbedire. A me spiace che il rappresentante di Unicredit non sia intervenuto questa mattina, perché avrebbe fatto tra l'altro una bella figura, avendo risolto il caso grazie a Roberto Galullo, certo, grazie alla munificenza dell'agenzia che si rimpallano spesso le responsabilità. Il fatto delle assicurazioni che spesso vengono imposte quando uno fa un mutuo e acquista una casa, non gli basta più l'assicurazione incendio furto alle banche, adesso chiedono assicurazioni di 7, 8, 10 mila euro, in alcuni casi neppure ti erogano il mutuo. Queste sono condizioni vessatorie, se continueranno saranno oggetto di un'azione di classe, perché non è più sopportabile per i cittadini, per questi disoccupati. In questi giorni il capo di Goldman Sachs è uscito sui giornali che prenderà 100 milioni di dollari di bonus dopo aver creato tutti quei disastri con la speculazione dei derivati. Ecco, le banche devono cominciare a cambiare registro. Io so, mettersi la mano sulla coscienza è difficile per chi una coscienza non ce l'ha, ossia i banchieri, ma devono cominciare a cambiare. Questo non rispettano le leggi, non rispettano i contratti. Dobbiamo evitare che magari la rabbia dei cittadini, dei consumatori, che si può esprimere, non è il caso del nostro gentile interlocutore, ma in alcuni casi si esplica anche con la chiusura del rapporto di conto corrente. Esatto. Poi l'ultima cosa, mi lasci dire, proprio Unicredit, chi vuole andare a prelevare allo sportello in contanti 3 euro e in alcuni casi anche 5 euro per prelevare al bancomat. Sono cose assurde e illegali. Esattamente, allora su questo poi magari faremo una puntata anche su questo. Io rinnovo ancora una volta il mio invito a Unicredit a partecipare alla trasmissione, perché, ripeto, qui non si tratta di mettere qualcuno sotto accusa. Automaticamente però ci finisce nel momento in cui rifiuta il dialogo e francamente non è una cosa positiva. Del resto gli attacchi nei confronti delle banche provengono un po' oramai da tutte le parti, le stesse imprese che hanno grandissime difficoltà nella erogazione del credito. Abbiamo sentito recentemente anche il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama scagliarsi contro la protervia degli istituti di credito. Forse è il caso un po' di darci tutti una regolata, ma soprattutto di dialogare. Io ringrazio il presidente di Adusbef, Elio Lannutti. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Ringrazio il nostro radioascoltatore di Desenzano sul Garda. Grazie, dottor Marino. Grazie di tutto. E ringrazio in regia Paolo Corleoni e in studio Elisabetta Fusconi. E Roberto Galullo vi augura una buona giornata, ricordandovi ancora una volta il nostro sito www.radio24.it. Buona giornata a tutti.